Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz di modulazione di frequenza stereofonica, nonché sul web tramite la nostra app che potete tranquillamente scaricare dal nostro sito radiocittafujiko.it e naturalmente siete all'ascolto, oltre che di Radio Città Fujiko, di Città Fujiko Live Club, che è la trasmissione che inizia sempre con questa sigla, Laila di Derek and the Dominos, e che si preoccupa di farvi ascoltare musica dal vivo di ogni genere e di ogni epoca. Naturalmente siamo ancora nel pieno della campagna abbonamenti, se non l'avete ancora fatto fatelo per mantenere viva questa voce libera e indipendente nel panorama musicale non solo bolognese ma di tutta Italia. Siamo veramente pochissime le radio che sono realmente indipendenti e sono voci che bisogna mantenere assolutamente attive. So che per molti con i tempi che corrono è un problema anche economico, ma anche la minima donazione, che è quella da 25 euro, le altre sono 50, 100, 150, per noi è manna che cola dal cielo. E fra parentesi vi voglio dire che, oltre, non starò a dilungarmi sulle modalità di donazione, se andate sul sito appunto radiocittafujiko.it potete trovare tutte le informazioni che volete, meglio di come ve le potrei dire io. Come sempre Città Fujiko Live Club inizia con una novità. Oggi è una novità nel senso reale, cioè che è praticamente una registrazione dello scorso anno, ma l'album è stato pubblicato un paio o tre settimane fa, se ricordo bene, ma è una parte 2. Spiego l'arcano: se alcuni di voi seguono fedelmente le mie trasmissioni, alcuni mesi fa presentai una, o proposi almeno per meglio dire, un album che era accreditato a Bobby Ware and Wolf Bros. L'album si chiama tuttora Live in Colorado e oggi vi propongo lo stesso album, però il volume 2. Contrariamente a quanto succede di solito, invece di fare un doppio album, Bob Weir ha pensato bene di scinderlo in due parti. Non so se sia una scelta azzeccata, ma comunque questo è quello che è successo. Voi direte: chi è Bob Weir? Punto interrogativo. Bob Weir è un chitarrista che è stato per un sacco di tempo con i Grateful Dead, band che ha contribuito a fondare nel 1963 e che, come molti di voi sapranno, si è sciolta dopo il 1995 in seguito alla morte di Jerry Garcia, che era leader spirituale di questa band. I Grateful Dead nel corso della loro carriera hanno avuto dei momenti di pausa, e durante questi momenti il buon Bob, che era giovanissimo, fra parentesi, quando fondò i Grateful Dead aveva 15 anni, il buon Bob fondò un'altra band che si chiama Kingfish, che consiglio caldamente agli amanti del country rock, perché sono dei top in quel genere lì. Invece dopo il 1995, appunto dopo lo scioglimento dei Grateful Dead, ha sciorinato una serie di bands con alcuni membri dei Grateful Dead o meno, band che rispondevano al nome di Red Dog, The Other Ones, The Dead, Future Band e buon ultimo la Dead and Company. Il buon Bobby invece ha formato appunto questi Wolf Brothers nel 2018 come trio, insieme a un bassista e nonché produttore straordinario che si chiama Don Woos e al batterista Jay Lane. Poi la band si è ampliata, è diventato un quintetto. Fra l'altro al piano abbiamo Jeff Chimenti, che è un tastierista che è sempre stato nel giro grosso dei Grateful Dead. Questo live in Colorado 2, come del resto il numero 1, è stato registrato l'11 e il 12 giugno del 2021 al Gerald Ford Amphitheater di Vail in Colorado, che molti ricorderanno essere stata sede di un'Olimpiade invernale, e invece i giorni prima, l'8 e il 9 giugno, sempre del 2021, a Red Rocks in Colorado, Morrison per la precisione. Naturalmente la band alterna brani dei Grateful Dead a covers e a brani della carriera solista di Bob Weir. Quello che ci andiamo ad ascoltare adesso è uno dei super classici della produzione dei Grateful Dead. Devo dire che la scelta dei brani che vi farò ascoltare da questo album è abbastanza forzata, perché sono 7 brani, 5 durano oltre 10 minuti e altri 2 ne durano 5, tipo questo. Quindi farvi ascoltare 10 minuti forse un po' troppo anche per questa trasmissione, ma andiamo ad ascoltarci questa Ripple, Bob Weir and Wolf Brothers. Fountain and the dark of night, if you should go, no one may follow. That path is for your steps alone. But not I die. Un classico dei Grateful Dead, rifatto in questo arrangiamento nuovo da Bobby Weir and Wolf Brothers. L'album, lo ripeto, si chiama Live in Colorado Volume 2 ed è molto molto intrigante, come del resto tutte le cose che girano nell'ambito dei Grateful Dead. Come vi ho detto prima, una parte di questo album, non tutta, è stata registrata a Red Rocks, questo luogo fantastico che è uno dei miei grandi, grandi sogni, nel senso che già il luogo di sé è molto bello. Chi di voi ha visto il documentario Under the Blood Red Sky degli U2 sa di cosa sto parlando. È quel posto tipo... archeologico, diciamo così, anche se in realtà è un posto naturale che è stato un po' riadattato esattamente nel 1941 addirittura fu aperto parleremo, come avete capito, di Red Rocks in questa prima parte della trasmissione. Red Rocks, che si trova a Morrison, Colorado, è una cittadina a 16 km ovest di Denver e fra l'altro è ad un'altezza di quasi 2000 metri, 1965 metri per la precisione, e ha una capacità di 9525 persone. Naturalmente in questo caso il palco è in fondo e la platea si sviluppa in altezza. È un posto veramente magico come atmosfera e anche come suono. Ma come dicevo, aperto nel 41, ma la prima band rock a suonare a Red Rocks furono addirittura i Beatles nell'agosto del 1964. Invece nel 1971, durante uno show dei Jethro Tull, si presentarono migliaia di persone senza biglietto, il concerto era sold out, ci furono dei casini, come succedeva anche in Italia, lo sappiamo benissimo, e per cui per qualche anno i concerti rock furono banditi da Red Rocks, ripreso nel 1976 e stanno andando avanti tuttora con una programmazione che comincia da metà aprile fino a metà ottobre, tutte le sere concerti di grandissima qualità con tutte le band migliori che potete immaginare. E quindi adesso ce ne ascolteremo qualcuna di queste bands che hanno registrato album o brani singoli in quel di Red Rocks, a cominciare da una band britannica. Questa è la registrazione più recente, al di là di quella di Bob Weir che vi ho fatto ascoltare prima, è una registrazione del 2015, esattamente del luglio 2015, da parte di una band che viene da Leeds e che si chiama Alt J. Sono attivi dal 2007, sono molto molto famosi, hanno iniziato come quartetto, poi adesso sono un trio, ma naturalmente dal vivo si fanno aiutare da altri musicisti. Questo che ci andiamo ad ascoltare, che guarda caso si chiama semplicemente Live at Red Rocks, è il loro terzo album ed è il primo album dal vivo della loro discografia. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare è uno dei loro più famosi, si chiama Breeze Block. Loro sono Al J a Red Rocks. And I see my love, my love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, is gone. She does visual shrugs, hold her down with soggy clothes and breeze blow. She walking, green on my back, see my love, my love. This is the Black Cat on Cup. E ho accennato prima al video di Red Rocks, live di Red Rocks degli U2, e da lì è tratta, da quel concerto è tratto questo brano che ha presentato lo stesso Bono, si chiama Incadub, scusate il mio pessimo gaelico, in inglese invece si chiama The Black Cat, il gatto nero, e il tutto è stato registrato il 5 giugno del 1983 in quella fantastica località che si chiama appunto Red Rocks. U2, ultime notizie, dovrebbe uscire un album in marzo, ma la brutta notizia è che Larry Mullen Jr., il batterista, ha qualche problema, dovrà subire un'operazione, non ho capito bene di che tipo, ma praticamente non sarà disponibile per un eventuale tour nel corso del 2023. Vedremo come andrà a finire. Intanto tantissimi auguri a Larry Mullen Jr. Yeah. Let me hear you say day-oh. Day-oh. Day-oh. Get on. I can be lit, I can be anything I put my mind to. For all I gotta do is give myself a half a chance. I can bring love back into my life, share it with the world. If I got some balance to everybody now, viene dall'Australia John Butler, anche se in realtà è nato negli Stati Uniti, ma la sua famiglia si è trasferita down under, come si dice, quando lui era giovanissimo, per cui è titolato come australiano. Insieme al suo trio, appunto il John Butler Trio, è stato a Red Rocks nel giugno del 2010 e ha registrato quello che poi è stato pubblicato come combo, vale a dire un doppio CD più DVD che racchiude il suo concerto appunto del 4 giugno 2010. Il brano che ci siamo ascoltati in particolare si chiama Zebra. Fra parentesi, John Butler solo sarà in Italia la prossima estate, non so esattamente tutte le date, ma so per sicuro che sarà l'11 luglio al Circolo Magnolia di Milano, in apertura del concerto di Ben Harper and the Innocent Criminals. Sarà sicuramente una gran bella serata, perché sono due artisti abbastanza simili musicalmente parlando, e sono veramente molto interessanti. Quindi segnatevi questa: 11 luglio, Circolo Magnolia, Milano. Mi sono accorto che quest'oggi è una puntata, una trasmissione molto maschile, e c'è solo una ragazza, una signora anzi per meglio dire, che è quella che ci andiamo ad ascoltare adesso, che risponde al nome di Ricky Lee Jones. Lei è stata in concerto a Red Rocks nel 2001, non si sa esattamente la data, non sono assolutamente riuscito a trovarla, ma è nel 2001, e ha pubblicato questo album che, come del resto tutti quelli che ci siamo ascoltati finora, a parte YouTube, tutti gli album si chiamano Live at Red Rocks, non molto originale dire il vero. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è quello più famoso di Ricky Lee Jones, dedicata a un suo amore e a un altro artista che purtroppo è scomparso il 20 luglio dello scorso anno, artista abbastanza sconosciuto ma sicuramente molto valido, che si chiamava Chuck Is Ways, e appunto questo brano si chiama Chuck Is In Love. To pretend you just met me and tell me what you think about this. Well, how come he don't come in PLP with me when I'm down at the meter no more? And how come he turned off his TV and he hung that sign on the door? Well, we call and we call, how come we say, what could make a boy behave this way? Well, if that door look the lines now, and every time they don't stutter when it talks, and it's true, it's true, it's hard to the quiet, kind of a cool, and I'm inspired. So the dad when he walks with his jacket and his old jeans. This ain't healthy. This is, I guess that, well, that thing that Chuck is in love. But I don't believe what you're saying to me. This is something that I have to see. I think it was really admirable of you to keep time with me as long as you did. Is it here? I look in the pool hall. Is it here? Because I go through a lot of drummers, you know what I mean? Is it here? I look in the drugstore. Is he here? They said, no, he don't come here no more. Did I tell you what? I saw him. He was sitting right behind you when you were at the Pantages. Is it cold as hell? Is that hurt? Come potete sentire dal pubblico, sono molto apprezzati da un pubblico prevalentemente femminile questi Imagine Dragons, che è una delle poche bands statunitensi che arrivano da Las Vegas, Nevada naturalmente, e sono attivi dal 2008. Loro erano a Red Rocks il 16 maggio del 2013 e hanno registrato il concerto, che è stato poi inserito in questo combo, anche in questo caso un album, un CD per meglio dire, e un DVD. Stranamente il DVD non racchiude il concerto in maniera integrale, è spezzettato, alternato alla registrazione del loro album precedente che si chiama Night Visions. E infatti questo album, contrariamente agli altri, non si chiama Live at Red Rocks, ma si chiama Night Vision Live, Imagine Dragons. I said it before, I won't say it again, love is a game to you. Altra band molto nota nel circuito alternativo, oserei dire, americano e mondiale, da tantissimi anni sulle scene, addirittura dal 1983, arrivano da Oklahoma City e sono da sempre capitanati da un pazzo furioso che si chiama Wayne Coyne. Suona la chitarra e canta naturalmente, dirige la band sin dall'inizio. Hanno fatto delle cose assolutamente incredibili. Alcuni anni fa pubblicarono un album per ascoltare il quale bisognava avere 4 lettori CD e farli suonare contemporaneamente. Chiaramente una cosa assolutamente impossibile secondo me, ma lo fecero, e questo denota quella che è la pazzia appunto di questo Wayne Coyne, dei Flaming Lips, forse non l'avevo detto, ma sono loro. Loro sono stati a Red Rocks diverse volte, e questa è una di quelle volte. Adesso vedo se riesco a recuperare la data al volo. No, non c'è niente da fare. Ok, comunque sono stati a Red Rocks in questa occasione con addirittura la Colorado Symphony Orchestra, quindi una cosa molto pomposa, molto classica, come si evince anche da questo brano, che è il brano di apertura, si chiama Race for the Prize. Loro sono Flaming Lips. songs that we're singing. Thank you. Tutti i 9.525 presenti a Red Rocks quella sera cantarono insieme a Bob Weir e i suoi Wolf Brothers questa splendida Breakdown Palace, naturalmente un classico anche in questo caso dei Grateful Dead, in un arrangiamento particolare, diciamo, ma sicuramente molto molto coinvolgente. È la novità che vi propongo quest'oggi, appunto Bobby Weir, si fa chiamare adesso, non Bob, un po' più amichevole, diciamo così, and Wolf Brothers. L'album si chiama Live in Colorado, esattamente come quello che è uscito qualche mese fa. Infatti da nessuna parte c'è scritto volume 2, ma io vi dico che è il volume 2 perché appunto il volume 1 ve l'ho già proposto come novità qualche mese fa al tempo della sua uscita. Grande album, molto molto bello, e ve lo consiglio caldamente. Bobby Weir and Wolf Brothers Live in Colorado, il pezzo si chiamava appunto Breakdown Palace. Every day is between... Come sempre nella seconda parte arriva Ricordi Today, ancora una volta ve lo dirò, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna nel trascorrere degli anni, e ancora oggi 21 dicembre ce ne sono tantissimi, per cui ancora una volta il criterio di scelta è quello di un brano per ogni decade. E ne siamo subito la grandissima, uno dei migliori album live mai fatti, ma qui ci sarebbe anche da dire qualcosina, nel senso che si chiama Rock and Roll Animal l'album, naturalmente Lou Reed, l'album che è stato registrato in questa serata è stato pubblicato nel febbraio del 1974, ma nel marzo del 1975 fu pubblicato un altro album live che si chiama semplicemente Live, registrato nella stessa serata, e così si ha il concerto completo. Peccato che appunto sia uscito in due volte e non come album doppio, ma comunque è sicuramente tutti e due insieme sono una pietra miliare nel campo della musica rock live. Ci sono pezzi assolutamente straordinari e una band fantastica, come dimostra il brano che ho scelto per voi per dimostrare appunto l'anno di grazia 1973. È uno dei miei 10 pezzi top della mia assolutamente variabile classifica, o per meglio dire della mia classifica personale di top 10. Ci sono almeno 5 brani che sono costanti e altri 5 magari cambiano, ma questo intro Sweet Jane è sicuramente sempre sempre sempre presente, perché ascoltatela bene, è una cosa con due chitarre al fulmicotone che fanno veramente faville. Era il 21 dicembre del 1973, Academy of Music di New York City, Lou Reed. Thank you. little bit. Me, honey, on rock roll, babe. Riding us the spaghetti. Goes with different. The dress of the ladies, they rule their eyes. Sweet Jane, sweet Jane, sweet che mi riguarda, assolutamente fantastico. Intro Sweet Jane, brano di apertura del concerto del 21 dicembre 1973 all'Academy of Music di New York da parte di Lou Reed e della sua strepitosa band, Dick Wagner e Steve Hunter, due chitarristi eccezionali che con 7Z che sarebbero poi andati confluiti insieme con altri membri di questa band nella band di supporto ad Alice Cooper, ma questo è un altro discorso. Il tutto appunto registrato il 21 dicembre 1973. Don't know just where I'm going. Rimaniamo nell'ambito newyorkese, nell'ambito di un personaggio che può essere assimilato a Lou Reed, nel senso di junkie, nel senso di quel circuito musicale newyorkese che bazzicava molto con sostanze non propriamente legali. Man, when I put a spike Lui si chiamava Jim Carroll, era principalmente uno scrittore. Il suo The Basketball Diaries è famosissimo, ha vinto un sacco di premi ed è considerato uno dei migliori libri che siano stati pubblicati sulla Grande Mela e sul circuito appunto dei bassi fondi di New York City. Lui era multimediale, era anche un musicista, un cantante per meglio dire, e anche lui sapeva circondarsi di ottimi musicisti, fece almeno tre album che sono veramente molto molto interessanti, e i primi due molto belli, e poi ha suonato in qua e là per gli Stati Uniti, soprattutto però nei dintorni, americanamente parlando, di New York City. Infatti questo brano che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato al Paradise Rock Club di Boston, Massachusetts, quindi sempre in termini americani non lontanissimo da New York City, e fa parte di un album, di una raccolta che si chiama WBCN Naked Disc 2000. La WCN era tuttora una radio di Boston, che è stata attiva dal 1958, e nel 2009 però ha cambiato proprietà e ha cambiato anche nome. Infatti adesso si chiama WWBX. Come sapete, negli Stati Uniti le radio hanno questi nomi con un acronimo praticamente, e per cui c'è stato questo cambiamento di nome, anche un piccolo cambiamento dal punto di vista di direzione musicale. Ma qui siamo, come vi dicevo, nel 1980, siamo nel pieno del rock, e quindi ce l'andiamo ad ascoltare. Jim Carroll Band, il brano si chiama It's Too Late. Sharon Tate, it's too soon, but the bullet's gonna dance in the brain of Reverend Moon. I think it's time that you all start to think about getting by without that need to go out and find somebody to love. It's too late. No one left that I even want to imitate, but it's too soon to ask me for the words I'm called on my tune. So I think it's time I should all start to think about getting by without that obsession to rely on somebody to love. Three little drops have come, you put yourself into the pit, you could have been the chosen one. And they just don't know, I'm here to give them my heart, and they want a fucking fashion show. But it ain't no contribution to belong to the Harvard Institution to validate your chosen heart and to sanction your little boy that you play out your heart. When they got nothing to give, they part their legs for what's negative. I am so decadent until their daddy's money from home's all spent. So I think it's time, cause it's too easy to rely on worshiping devils and strangers in bed. But they do get the drugs, they do give good head. Good head. Late, I should've realized I was worth the work. But honey, you didn't hesitate. When it took you off, you let them seal all faith. So I think Jim Carroll Band, se non avete mai letto The Best Bull Diaries, leggetelo perché è molto interessante, anche se negli ultimi tempi, negli ultimi anni, forse anche negli ultimi decenni, è stato un po' superato da altri libri che parlano dei sottofondi di New York. Qui invece siamo in campo musicale con la Jim Carroll Band. Era il 21 dicembre del 1980 in quel del Paradise Rock Club di Boston. It's Too Late, il brano che ci siamo ascoltati. Nel febbraio del 1990 uscì l'album d'esordio di una band che in realtà era attiva dal 1984, band che arriva tuttora da Atlanta, attiva tuttora con qualche intermezzo anche un po' polemico nel corso di tutti questi anni, e poi l'album d'esordio, che si chiama Shake Your Money Maker, è stato riedito nel 1991 in occasione del trentennale in versione 3 CD. L'ultimo CD contiene una registrazione effettuata proprio nella loro città natale, ad Atlanta, nel 21 dicembre del 1990. Loro sono Black Crowes. Il brano che vi propongo è quello che gli ha portato tanta fortuna. In realtà è un brano di Otis Redding, si chiama Hard to Handle. So mama, I'm so hard to handle now, just around. Action is out of the words, well, the fears. Got you with all my life, babe, I love you better than him. Yeah, don't be afraid, through every word I say. Ties I'm love for free, that's the way for me. Let me light your chemicals, oh mama, I'm so hard to handle now, just around. Yeah. Gotta get it home. So mama, I'm sure hard to handle now, just around. La voce inconfondibile di Johnny Lydon, detto anche Johnny Rotten al tempo dei Sex Pistols, a guidare i Public Image Limited, band che appunto John Lydon fondò dopo lo scioglimento dei Sex Pistols nel 1978 e che riesumò nel 2009. La band inizialmente durò fino al 1992, poi è stata riesumata dallo stesso John Lydon nel 2009 ed è tuttora in giro. Questo album si chiama Alive 2009 ed è uno di quegli album instant, chiamiamoli così, album che racchiudono un concerto, viene venduto alla fine del concerto, però poi sempre vengono fatte copie in più che vengono vendute anche nei siti appositi. This is not a love song, il pezzo che ci siamo ascoltati dai Public Image Limited, era il 21 dicembre 2009. Ultima cosa di Recorded Today di oggi arriva dal 2013, una band britannica che è attiva dal 1990 ed ha un grandissimo successo in Germania. È sempre stata capitanata da Justin Sullivan, che è il leader e l'unico membro originale rimasto dopo 42 anni. E come dicevo è molto famoso in Germania, infatti parte di questo album che si chiama Between Wine and Blood, fra vino e sangue, è un doppio CD, un CD è in studio e l'altro dal vivo, registrato in diverse occasioni, parecchie delle quali appunto al Palladium di Colonia in Germania il 21 dicembre 2013. Il pezzo che ho scelto per voi si chiama Lean Back and Fall, loro sono New Model Army. Thank you. Si chiamano tuttora New Model Army. Nell'arco di 42 anni di carriera hanno fatto tantissimi album live, questo è uno di quelli, anche se, lo ripeto, è un doppio, parte in studio e parte dal vivo. E questo brano che ci siamo ascoltati si chiama Lean Back and Fall, registrato il 21 dicembre del 2013. Intanto è arrivato un messaggio del quale ringrazio tantissimo, anche se non mi sembra che ci sia il nome, ma praticamente concorde con me sul fatto che la versione di Sweet Jane sia meravigliosa e come me, io come lui la preferiamo all'originale, e dice che è certo che Steve Hunter, che è uno dei due chitarristi che ci siamo ascoltati all'intagliare sti riff, anche la sigla di Candy Candy sarebbe bellissima, e non posso che essere d'accordo con lui. Lo ringrazio tantissimo per questo messaggio e grazie ancora. Era l'ultima cosa per Ricordi Today, quella del 2013 dai New Model Army. Rimane il tempo per riascoltarci qualcosa da Bobby Weir e dei suoi Wolf Brothers. Vi ho detto che in questo Live in Colorado volume 2, come del resto anche nel volume 1, ci sono parecchie covers. Questa è una di quelle, un classico della musica country americana, si chiama Mama Try, di un grande personaggio che risponde al nome di Merle Haggard, anzi rispondeva al nome di Merle Haggard. Mama Try, loro sono Bobby Weir and Wolf Brothers. Whistle blowing and the youngest dream of growing up right on a freight train leaving town, not knowing where I was bound. No one could steer me right, but Mama tried. One and only rebel child from a family big and mild. Mama seemed to know a glad start. Despite all my Sunday learning, toward the bat kept on turning, till Mama couldn't hold me anymore. And I turned 21 and busy doing life without parole. No one could steer me right, but Mama tried. Mama tried, Mama tried to raise me better, but it needed I denied. At least no one but me to blame, Mama tried. Dear old daddy, rest his soul, met my mom heavy load. He tried very hard to fill his shoes, working hours without rest, wanted me to have the best. She tried to raise me right, but I refused. And I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could steer me right, but Mama tried. Mama tried. Mama tried to raise me better, but with pleading I denied. That leaves no one but me to blame, because Mama tried. no one but me to blame, 'cause mama tried. At least no one but me to blame, 'cause mama tried. At least no one but me to blame, 'cause mama tried. Erano Bobby Weir e Wolf Brothers, Mama Tried, un classico di Merle Haggard contenuto in questo Live in Colorado Volume 2 che vi ho proposto quest'oggi come novità. Prima di concludere con gli auguri natalizi, naturalmente vi voglio ricordare un paio di cose, anzi una ve la dico per la prima volta. Mercoledì prossimo non sarò in trasmissione, lo staff di Città Fujiko Live Club, che poi sono io, si prende un attimo di riposo e ci risentiremo, mi sembra che sia il 3 di gennaio, con il Best del 2022, una trasmissione molto molto particolare. Prima appunto vi voglio ricordare però che vi siete ascoltati, questa è un'altra cosa, Città Fujiko Live Club dai 103.1 MHz di Città Fujiko, di Radio Città Fujiko da Bologna. Vi ringrazio per l'ascolto, quindi vi do appuntamento l'anno prossimo, vi faccio tutti i migliori auguri possibili e immaginabili per il 2023, tutti gli auguri di Natale per chi può interessare, anche perché vi lascio con degli auguri fatti da un personaggio molto più altolocato di me che vi faranno sicuramente piacere. Vi ringrazio di nuovo per l'ascolto, ci vediamo, ci sentiamo l'anno prossimo, ciao a tutti da Nevio.